Maria, buongiorno. Buongiorno. Lei ha un problema in famiglia? Non lo so, forse. Eh no, sia sincera. No, Secondo lo dica me. senza paura, non c'è problema. Siamo qui proprio per vuotare il sacco dei nostri pesi. Ci Secondo me mio marito un pochino ci è. sta diventando. Sì, perché comunque il modo di vestire, io gli sto sempre dietro, non ci riesco. Poi. No, abbia coraggio, dica è particolare. Allora, suo marito, cominciamo dalla biancheria intima, che è quella che meno si vede, l'umarelle maggiormente denota l'umarellaggine. Ah no, su quello poi se la fa preparare da me perché sa che da solo combina pasticci. Ad esempio? Ad esempio mette la t-shirt di un colore, i boxer di un altro, cioè Ah, perché lei gli fa cose. anche coordinatini? E certo. Perché mette la maglietta della salute comunque. Non proprio della salute, però insomma sì, ha sempre bisogno della magliettina C'è la sotto. maglietta sotto la camicia, che già quello è una Ecco, già condanna. Sotto quello. Poi certe volte pretende anche di metterla sotto quella di lino. la camicia di lino la maglietta. Mette la t-shirt e Lei la chiama sinceramente. t-shirt per dargli una ripulita, ma è una magliettaccia sotto la camicia, che già quella fa senso. Suo marito mette pigiama? La sera va a letto in nudo? Beh, questo già questo è un punto di vantaggio, però. Nudino, non proprio nudo. Cioè? Che vuol dire nudino? T-shirt e boxer. Allora vede, allora è come fosse un... La stessa maglietta, le stesse mutande che mette durante il giorno se le porta a letto. E beh, è una cosa schifosa da Umarell, questo. Andiamo avanti, calzini. Su quelli vabbè. La scarpa da tennis Peggio possibile. improbabile. Scarpa da tennis con calzino blu, perfetto. Sì, pantalone marroncino, beigiolino. Scusi se sono brutale, ma serve questo per dare al professor Masotti. Frequenza del debito coniugale. Come sarebbe del debito Signora, ha coniugale? capito. L'Umarell è, diciamo, falso dovere da marito nella maniera giusta. Diciamola tutta, su. Vabbè, abbiamo Forse. capito.